Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Le indico degli oggetti e lei mi dirà come si chiamano. Le indico degli oggetti e lei mi dirà come si chiamano. La clé è la chiave. È la chiave. Le verre. È il bicchiere. È il bicchiere. La montre. È l'orologio. È l'orologio. Le lunette. Sono gli occhiali. Sono gli occhiali. Le telefono. È il telefono. È il telefono. Le peigne. È il pettine. È il pettine. Le ciseaux. Sono le forbici. Sono le forbici. Le rasoir. È il rasoio. È il rasoio. L'enveloppe. È la busta. È la busta. Le crayon. È la matita. È la matita.